Inizio a registrare per Ainet poi. Ah, ma non viene, ce l'hai detto, no? Non ha risposto, ma credo di aver capito che sia super mega incasinato Ah, ok. con concorsi d'entrata e roba del Sì. genere. Ok. Ma va bene, era nella scatola portatile, no? Era. Ah, Sì, tra l'altro, chi è che ce l'aveva? Non ne ho idea. Cosa? No, Forse scusatemi, Ainet. sono persa. Di cristallo. Il sasso. Ce l'ho io. Non so, Chi forse ce ce l'aveva Ainet stessa. l'ha? È diventata in loop? Vabbè, ce l'avrà Una specie di dato. Inception, qualcosa del genere. Ma quale? Ma di cosa state parlando, Comunque portatile, chi è che ce C'è l'ha? un Ah, io no! artefatto Io nel quale. neanche. Forse ce l'ha Ainet. Vabbè, l'ha dato a. Ma Enet si è infilata dentro e poi l'ha data a qualcuno. Chi è che se l'è pigliato? Ce l'ho io, dai. Ce l'hai Ok. tu? Ok, ce l'hai tu. Ok. Vi ricordate se l'avevamo l'ultima volta? Assolutamente no. Neanche Allora, io. vi ricordate che vi eravate schiantati con Sì, quello l'aeronave e sì. poi Sì. come stile biblico Oddio, avete stavamo vagato? morendo nel deserto. Esatto, stavate morendo nel deserto, siete partiti un po' Giusto, leggeri, stavate dicevo. morendo nel deserto, io non bevo. C'era gente che moriva nel deserto e vi siete resi conto di essere partiti un po' leggerini. Quando la pelle iniziava a riempirsi di piaghe, di scottature, ad un tratto avete sentito un rumore strano che proveniva, sembrava da nessuna parte. E girandovi avete visto una specie di sfrigolamento, qualcosa di strano, e vi siete resi conto che, anche se in realtà sembrava invisibile, vi siete infilati in una specie Di di posto. piaga nella realtà, e avete trovato una specie di semicupola. Sì, dai, che dopo io ero entrato Esatto. nel posto dove c'era l'acqua, i Esatto. topi. Esatto, Ah, c'era acqua, sì. una vegetazione lussureggiante all'interno. Vi siete anche, non mi ricordo chi di voi, ma qualcuno di voi si era avvicinato a questa apertura a forma di iride, che era chiaramente una porta, e si era quasi fatto Stile risucchiare dentro. io. Sì, Steel uno. credo. Dopodiché Ash, grazie al fatto che si è sfasato, si è infilato dentro, beh, si è accorto che dentro c'era parecchia vegetazione, anche un po' di vita, e quindi ne ha approfittato per riempire qualche borraccia, roba del genere, e farsi un giretto. Si è fatto il suo giretto fino a quando non ha fatto un 1 in percezione, credo, quindi ha fatto In speed. In speed, ha fatto un 1 da qualche parte e si è ritrovato in mezzo a questa cupola ad osservare quello che sembrava un enorme albero. Un enorme albero. Arrivo, nel quale farò una descrizione. Eccolo qua. Non avevo visto della gente. Sì. Ah. Avevi visto della gente e questa gente era. Scusa, cerco solo un attimo la descrizione della bara. Allora, ci sono. Sopra una collinetta, circondato da delle erbe alte, di colore rosso, c'è un albero, come dire, un po' spiky, un po' Con delle spine puntuto, appuntito sì, appuntito, ma anche, come dire, delle spinoso, spine, ok. diciamo spinoso. E di color rosso, arancione e blu. E quattro figure potevano essere viste sedute intorno a quest'albero in una posizione di meditazione. mentre ti avvicinavi ti sei anche accorto che queste figure sembravano alzarsi e tirare delle pietre all'interno del dome, della cupola. Dopodiché ti sei avvicinato e ti sembrava che fossero delle figure umanoidi, non sei sicuro se fossero umane o no, e ti è sembrato che la loro pelle sia leggermente bluastra e quasi scagliosa. Ma mi hanno notato loro? Loro ti hanno fatto ciao ciao e poi si sono girati. Ah, qui cioè, mi hanno notato e poi si sono arrangiati. Sì, ti hanno fatto ciao ciao con le manine e poi si sembrano essersi accovacciati nell'embra e sembravano stessero preparando qualcosa forse per il tuo arrivo. Per il mio arrivo. Il problema è che un secondo prima di finire la sezione hai sentito qualcosa strisciare dietro di te. Ah, e mi guardo alle spalle. Ti guardi alle spalle e vedi per terra una specie non saprei se definirlo tentacolo, ma non esattamente. È una specie di immagino una liana che striscia. Oh cacchio, una liana che striscia. Quasi invisibile, quasi trasparente, e dopodiché vedi che la liana si alza, noti che la liana termina una specie di spuntone il quale cerca di infilzarti. Oh cacchio. Ok, faccio evito, dov'è? Qua. Mm-hmm. E ci metto un effort, vabbè, non so come si fa a metterlo. Sì, ma basta che mi dici. Ci metto quindi 7. Ok. Difficoltà 7? Sì. Allora, ti butti di lato, pensando di aver quasi schivato questa specie di spuntone, e ti si infila nella clavicola, trapassandoti da parte a parte, e facendoti 8 punti, 10 punti di danno. Con difficoltà 7? Con schivata 7? Fuggite. Ti rendi conto che questa specie di tentacolo parte dall'albero. Quant'è che mi ha fatto di danno, scusa? 10. Porca puttana. All'esterno voi sentite dei rumori, sentite un urlo lancinante, uno dei chiaramente l'urlo riconoscete a Ash. Adesso sono infilzato da sta cosa, posso scappare? Provo a scappare io. Puoi provare a scappare su, Cosa faccio? Ti rendi conto però che i quattro tizi che erano per terra stanno correndo verso di te. Pezzi di merda. Facciamo così, guarda. Iniziamo con l'iniziativa. Però prima, per fare più divertente... i tuoi compagni che hanno sentito qualcuno di gridare, così presi un attimo dalla, non dico dal panico, ma dalla sorpresa, hanno fatto giusto un passo avanti per vedere di ascoltare un po' meglio. Ci sono dei volontari o faccio io a caso? Eccomi. Ok. La Cristina penso sia crashata da Discord, quindi. Ah, ok. Dunque, guarda, uno è un GM intrusion per te e l'altro a chi lo diamo? Diamolo a Dash, che mi sembra averne bisogno. Ok. Vabbè. Così preso dalla presa, fai giusto un passo avanti verso la porta, vedi che l'iride si apre e inizia a succhiare. Fai una speed defense. Ma io che peso una tonnellata. Ho dei bonus. No, ma ha un impatto su quello che succederà. Perché ho un malus su tutte le prove di prontezza. Beh, diciamo... è una defense, però. Sì, è una speed defense. E allora... Speed defense, aspetta. Ti dico subito se è una speed defense. Sì, speed defense. Tre. Ok. Perfetto. Dunque, Steel e Nico vedono Nir che viene risucchiato da questa immensa porta. Dopodiché, qualche istante dopo, vedete della terra, dell'erba, dell'acqua in quantità molto imponente essere catapultata fuori da questa entrata. Quindi vedete lui risucchiato dentro e vedete che una caterva di terriccio, erba e acqua vengono sputate fuori dalla stessa entrata. Nir, tu ti trovi all'interno, ti dico, intorno a te vedi una varietà di animali, e, erbe, alberi, e noti sopra una collinetta un enorme albero, quello che dalla quale ti ho fatto la descrizione, e probabilmente vedi anche Ash che corre. Ah, sto correndo, quindi? Non lo so, fate l'iniziativa e ditemi voi. Iniziativa. Non vedo il risultato. Ok, 4 e 7, quindi difficoltà 1 e difficoltà... 7 già con l'inabilità calcolata, sì, sì. Ok, quindi è difficoltà 2. Dunque, vedete innanzitutto questi gli uomini che corrono verso di voi, queste figure, soprattutto tu, Ash, perché Nir è ancora lontano, vedi che ci sono queste quattro figure umanoidi che iniziano a correre verso di te. Ok. Mi sembrano... Ti sono a contatto adesso, le vedi, sono delle strane figure, non hanno più niente di umano, sono coperte delle specie di scaglie bluastre. Sono a 10 metri da me o più? No, adesso hanno corso e hanno speso tutto in pratica il loro movimento giusto per avvicinarsi a te, quindi non ti attaccano, non fanno niente. Attorno a lui, poche cazzo c'è, perché prima mia mamma è entrata in camera e non ho capito una mazza. Ah sì, ci sono in pratica, aspetta che li conto, 4, sì. Ci sono 4 figure che sono intorno a lui e un enorme albero. Ok. Un enorme albero che è contornato da delle erbe alte, delle erbe alte che sembrano leggermente secche, è coperto di spine e di un colore che varia tra il blu, l'arancio e il rosso. Okay. Fammi una prova di percezione. Chi? Nir. Tu te ne sei accorto perché l'hai sentito nella schiena, ma voglio vedere se... Non me l'ha tirato, eh? Perché non me lo tira? Perché non me lo tira? Ma lo faccio io per te? Ah, okay. Guarda, no, 17. 3, ho laggato. Fra il 15 e basta, diciamo. 15. Ti rendi conto che... da quest'albero partono e sembravano quasi invisibili, una serie di... appendici, quasi dei tentacoli, e uno di questi tentacoli è visibile perché sta cercando di attaccare Ash, e vedi che termina con una specie di spuntone. Sembra mirare alla base del collo di Ash. Ma che allegria! Ash ti attacca l'alberello. Di nuovo? Sì. Provo a evitare, ci metto sempre un effort, ma cioè... Che cazzo vuoi che faccio? 18, quindi fai difficoltà 7 più 1 di effort, più left, 8. Vedi che va a una velocità impressionante. Questa volta però hai capito che ti stava mirando probabilmente il collo, visto che prima ti aveva quasi spaccato una scapola, e riesci a bastare la testa un millisecondo prima che questo spuntone ti infilzi. Ok. Sta a Nir, credo, e poi a Dash. Un secondo, quanto distante sono dai quattro tizi? Allora, quanto sei distante? Sei a distanza lunga. In tutto il turno per camminare. Ok. No, era una domanda. Ah, se mi fai una prova di corsa puoi arrivare fino a lui. Una doppia inabilità nella corsa. Non ha molto senso. Bene, scusate. Proprio la team ha deciso di uccidermi. Ah. Allora, ti faccio un po' tutti ultimamente. Sto morendo. Sì, oh, lì non è la team, è un arbaro. C'è l'operatore della team anche qui. Esatto. Sì, la team sta già uccidendo macchine, reti. Esatto. Breve riassunto, avete sentito Ash gridare di dolore, Nir si è un po' spaventato, ha fatto giusto, spaventato, incuriosito, ha fatto un passo in avanti per sentire meglio e si è fatto risucchiare dalla porta d'entrata che si è aperta tipo a iride, e dopo millisecondi dopo che Nir è stato risucchiato, ha sputtato fuori una serie di erba, terriccio e acqua in quantità molto molto imponente. Ne ha sputtato fuori un bel po'. Ah, non io, la porta. Non sembrano essere dei pezzetti di Nir quelli che sono usciti, per rassicurarvi. Sembra proprio roba che era dentro sempre. Ma ovviamente noi non riusciamo a, cioè, tipo urlando, a farci sentire dagli altri dentro. Potenzialmente da Nir, perché era proprio stato risucchiato dentro. Quindi. Voi dall'esterno sentite tipo lo scroscio d'acqua, avete sentito anche Ash gridare, quindi stimi che potresti farti sentire. Ok, provo urlando e battendo sul muro, sulla parete, per chiedere se sta bene. Sulla parete dove? Nel punto dove è entrato Nero? Ah no, distante da quel punto. No, così. Sei sicuro? Allora, ti trovo documentazione gratis. Tu sbatti sulla porta, state bene. Nir, prima di partire a correre, senti leggermente attutito come un state bene, qualcosa del genere. Io urlo Ash in pericolo, enfatizzando la parola pericolo in modo che gli arrivi almeno quella. E poi niente, mi dirigo verso Ash. Ok. Direi che mi muovo un po'. Ok. E quasi quasi, vediamo che armi ho. Ho un disco rasoio. Così. E provo a tirarli. Cioè, i tipi che gli stanno intorno sembrano minacciosi. Stanno caricando. Sì. Okay, sembrano chiaramente minacciosi. E allora minacciosi. Provo a tirare il contattatorico con rasoio. Allora, se tiri il disco rasoio, però ti puoi muovere solo di un metro e mezzo, ti ricordi? Ah, cazzo, è vero. No, niente, no, non mi vale la pena. Corro fin da lui e basta. Ok. Ok, tu a me? Maglio, sventagliando il maglio e urlando minaccioso in modo da tirare un po' di attenzione. Tu a me? State, Ash. E la gente, cioè, Fasa. No, devo... la gente che è vicino a me è a 10 metri o più distante? No, è meno distante. Hanno corso la sola cosa che hanno fatto. Prendo un bicchiere d'acqua, arrivo subito. Allora uso sta roba qua. Dov'è? Allora, cubo dello svenimento. Ok. Ok, fai così, guarda, tira... Mm-hmm. Scusate, ero andata a prendere un po' d'acqua. Allora, cosa è successo? Ok. È successo che Ash ha tirato fuori il cubo dello svenimento. Bello. Ah. Ha schiacciato sul bottoncino, ha iniziato a vibrare il cubo, inviando delle vibrazioni sonore di qualche tipo. Mm-hmm. E senza avere alcun effetto, apparentemente. Nessun effetto? No. Porca malasche. Tira il depletion roll in più. Ok. Dai. C'è un albero che per schivarlo devo fare difficoltà 8. E ti muovi di un metro e mezzo, immagino. Sì, sì, scappo più distante che posso. Un metro e mezzo perché è attivato il cosetto. Ok. Sì, va, faccio la prova di lanciarmi più distante posso. Corri verso di me. Te lo do nel prossimo round quando potrai correre veloce. Ok. Dunque, sta... Nir, tu hai già fatto. Round nuovo. Vediamo. Nico fuori. Nico, Steel, fate qualcosa voi? Beh, ma io... Visto che ci avete richiamato, a questo punto... Entrerei ad aiutarvi, però non so se riusciamo a uscire. Vabbè, ma tanto Ash fase in qualche modo, quindi sì, mi lancio verso la porta. Cioè. Ok, Nico, tu vedi che si lancia attraverso la porta, stesso fenomeno di prima, vedi Steel entrare, però noti anche che la quantità di roba sputata fuori sembra essere minore. Cioè, tipo, prima c'è una caterva di terra, qua sembra che la quantità sputata sia leggermente minore. Cioè, no, decisamente inferiore a quella di prima. Okay. Guarda, te lo do come parte del movimento, Steel, se vuoi. Ti dico, entri dentro, ti muovi all'interno e quello che vedi è, in pratica, c'è della vita dappertutto, ci sono delle erbe colorate, ci sono degli alberi, per terra ti corre un topo davanti e quello che noti ancora di più c'è Nir che sta ancora correndo verso il centro della cupola. Un enorme albero al centro della cupola, quattro loschi figuri che stanno intorno ad Ash e quest'albero che in mezzo a una specie di prateria di erbe alte colore rossiccio che sembrano essere un po' secche più o meno. Ma riesco a capire che è l'albero che sto attaccando o non... Fammi una prova di percezione. C'hai l'asset che sto urlando albero. Sì, esatto. Qualcuno deve tirare per me perché no, non riesco a connettermi. Tiro un di 20 normale allora. Sì, percezione. Dovrei averlo fatto. Guarda, posso tirare io stile schicciando sulla tua. Ok. Hai dei bonus in percezione? Steel? No. Ok. Scusa, non ho visto quanto hai fatto. Ho fatto 13. 13, guarda, come asset, visto che sta gridando cazzo di albero maledetto, ti do che riesce a capire che sia l'albero la parte che più inquieta, diciamo, vedi nelle movenze di Ash che non si sta troppo inquietando dei quattro tizi davanti, ma sta guardando tipo dietro verso l'albero e vedi che c'è una specie di punzecchione che gli sta cercando di attaccarlo. Quindi sì, capisci che il pericolo sia l'albero. Ok, se riesco in questa azione estraggo sia la spada che lo scudo. Sì, sì. Hai estratto spada e scudo. Ok, Nico, inizia a incoraggiare. Ma io volevo capire una roba, questa porta... Sì, è un iride, è presente in una macchina fotografica. Quando... Sì, okay. Se preferisci. Ma quindi a ragion di logica, cioè praticamente ogni volta che qualcosa gli si passa di fronte si apre. Sì, è la risucchia. E in cambio sputa dell'altra roba. Ok. Non mi ricordo, Ash, tu eri già uscito tu, Ash? Non mi ricordo. Io sì. Dunque, quindi eri entrato una prima volta e poi sei rientrato una seconda? Sì, sempre okay. Dal... Ash, sì, sempre sfasando. Sì, aveva fatto... avevi rincontrato gli altri, mi sembra, no? Gli avevi dato l'acqua, eccetera. Sì, sì, sì. Ok, quindi Ash l'ultima volta, facendo una prova di Numenera, si era accorto che il meccanismo funzionava così. Ogni volta che entra qualcosa nella biosfera, per mantenere l'equilibrio, sputa della roba fuori. Nella stessa maniera... Se distruggete della roba nella biosfera, quando siete nella biosfera con Cypher o con altra roba in maniera improvvisa, vi sputa fuori. Quindi aveva già trovato il modo per uscire. Ah, ok, no, infatti stavo ragionando su quello. Cioè, avevo sì, sì. Capito che c'era qualcosa di proporzionale sul fatto esatto. Di chi entrava e la cosa che usciva. Ok. Ma quello che aveva capito Ash è tra l'altro che se tipo, non so, distruggevi qualcosa con un cypher o bruciavi qualcosa in maniera repentina, sputava della roba fuori per guardare, per passava a guardare l'equilibrio, diciamo. Sì, sì, sì, sì, sì. Va bene, dai, buttiamoci dentro nella mischia. Ok, Nico, stessa discorso per te, entri dentro, sprechi il movimento, ma se vuoi puoi fare un'altra azione all'interno. Ma quanto è distante l'albero? L'albero è a distanza lunga. Ok, quindi posso fare due movimenti, giusto? Se mi fai una prova di speed, sì. È un po' di paura fare queste prove. Se invece ci volessi andare in modo furtivo? Se vuoi lo fai il round prossimo. Ok, cioè arrivo là il round prossimo o in questo non vale? In questo, nel senso, questo hai già fatto il tuo movimento, se vuoi puoi fare un'altra azione che sia usare un cypher, tirare distanza o roba del genere, o una prova di percezione, persuasione, quello che vuoi, o altrimenti il round prossimo come tua azione di movimento fai il movimento circospetto. Per il cubetto, quello in cui era il Game Master a tirare un dado da 20 per scambiare un tiro effettuato da me, devo attivarlo? Sì. Non lo attivi quando fai il tiro? Mi sembra che dopo potevi scambiare quando vuoi, perché tu tiri, dici un tiro di merda, lo cambio. Cioè, ce l'hai la descrizione da qualche parte? C'è scritto Probably Engine. Ok, Probably Engine. Okay. Ho scritto così. Ma Probably Engine? Cioè, mi ricordavo che tu tiri un dado e lo tieni segreto quando lei lo attiva. E poi rimane quel tiro là. E tipo, quando lei tira e fa un tiro di merda, lo scambia gratis però. O tipo inizio giornata, una roba del genere. So che era abbastanza lungo come tempo. Sì, sì, sì, sì. Ma quindi va attivato ogni volta oppure... Cioè... Quello voglio capire. No. Devi attivarlo una volta. Lo attivi quando... Aspetta. Quando voglio. Se hai la descrizione... Prendo il manuale, guarda. Ok. Scusate. Mi concentro sul resto. Ma mi sembra che devi attivarlo una volta per farmi tirare il dado nascosto e poi in modo che tu non abbia bisogno di riattivarlo quando vuoi scambiare il dado. Hai capito? Ok. Credo. Si dovrebbe averlo già fatto quella roba lì per usarlo. Cioè, se vuoi attivarlo adesso, poi ce l'hai praticamente. Ma se io volessi attivarlo adesso va bene, no? Sì. Ok, va bene. Lo attivo. Master, tira un bel dado, please. Io ho tirato. Non barare. Io no, non baro. Cioè, guarda, aspetta, guarda. Datemi un secondo, faccio lo screenshot così. Possiamo vederlo. Ma lo tiene per dopo. No, dici? Me lo tengo per dopo. Dopo quando. Guarda qua. Alle 22:10. Se no non lo uso mai. Più due. Quindi, ditemi voi cosa. Tocca agli altri che erano già dentro. Tira il depletion roll prima. Ah sì, giusto. Sorry. Cos'è, uno di Tindos? 98, wow. Ok, non si spacca. Sì, è porco canto. Se non le artefatti più fighe. Arca boia, aspetta. Io ho uno su 6 e un guanto. Beh, il cavo di metallo non ha depletion, quindi. Pensati. Il mio sparacchi. Ok, io sono pronto. Quindi hai schiacciato sul Probability Engine e round nuovo. Sta prima all'albero che riattacca Ash perché gli è piaciuto. Oh no, sono distante io. E no, hai fatto un metro e mezzo l'ultima volta, quindi. Sto volendo perché vabbè, ci metto un cazzo di di effort. 5. Sbaglio o mori spesso, Ash? 5, dai, insomma, ormai me lo aspetto. Ma lui non ha anche la coppia da qualche parte? Sì, per fortuna gli servirà presto. Non ti sei accorto che ce n'era un altro tentacolo che questa volta ti ha attaccato dal retro e di nuovo ti fa 10 punti di danni. Sì, però attaccato dal retro è un po' pericoloso, cioè... Sì, mira il collo. Ok. Per fortuna sì, con il poteva essere peggio. 4. No, 4 perché... di speed e 5 di intelletto. E 0. No. Ma ciao, fa un recupero se puoi dopo. No, vabbè. Come no? Fai recupero. No, muoio. Così, o scappa. Così usiamo sto clone, dai. Ah. Ma senti, ti ho regalato un pix, usalo. E per ritirare? Io cosa per me? Sapendo che la difficoltà è 8. No, dai. Siete già per spacciato. Ormai me ne sono pigliato, dai, l'usano dopo. Vabbè, ok, dunque, Nico e Steel, tirate l'iniziativa che non l'avete tirata prima. Sto ancora bestemmiando con wifi, quindi qualcuno deve lanciare. Ok. Grazie, no, qualcuno. No, ma hai sbagliato lettere. Io ho fatto 15 e sono trainata. Ok, quindi oggi sta Nico. Oggi. Dai, te lo faccio io. Roll 1 di 20. Oh, no, non ci riesco. 17. Ok, non male. Quindi, Ash, sei trainato in iniziativa? Ah no, è per coso, è per... No, scusa, Steel, sei trainato in iniziativa? Forse sì. No, a me non sembrava. Guardo, ma non credo. Gli asset in speed defense, ho due asset in speed defense perché ho lo scudo e la katana. Ma iniziativa non... No, non iniziativa. Sei trainato in cucinare zuppe, quanto vedo. Deve essere utile. Cazzo, facciamo una zuppa di liane. Dunque, Nico, sta a te. Ti ridescrivo la scena. Vedi Ash, che si è praticamente fatto quasi attraversare da parte a parte con una specie di pungiglione, e in mezzo a una radura di erbe secche, contornato da quattro tizi e l'albero che è là sulla collina. Sì. E mo io cosa dovrei fare? Beh, quello che vuoi. Ma scusami, Nir è più vicino di me? Nir è più vicino di te, sì. Lui si è mosso. Ok. E io vorrei... Io? Cos'è che ho? Niente, lascia stare. No, non ce l'ho comunque. Sai, quello che intendi. Non ce l'ho io. Ce l'hai tu? L'ho dato via, mi sa, per il qua. Mi ricordo più. Niente, va avanti, scusa. Va bene, e no, allora, quindi la distanza è lunga? Sì. Ok. Quindi se volessi tirare, tipo, non so, qualcosa addosso, devo puoi avvicinarmi più? No, no, poi. Forse. Sono un po' indeciso su cosa fare, però. No, aspetta che non capisco niente di questo lutti. Che cavolo di... Sentite un altro risucchio e vedete che c'è Katog che entra anche lui. Oddio, no, abbiamo anche lui, cazzo. È vero, Katog. Ci abbiamo fatto mangiare per tutto il percorso. Ci dimentichiamo sempre sto poraccio. Posso tirare un tiro di osservare all'albero per capire meglio, cioè, vai pure. Nel senso, siccome immagino che Ash stia continuando a urlare albero, beh sì. Sì, ce l'ha in gola. Vai, okay. Fai un tiro. Era per capire meglio se c'è qualche cosa di particolare su quest'albero oppure no. Vai pure. Che non può, ma insomma, difficoltà 3. Difficoltà 3. Con 3 non è che sia un gran tiro, francamente. Comunque si vede che sono sono tipo delle radici o delle liane che stanno attaccando Ash, sì. Giusto? Vuoi rischiare il tuo... Okay. Il tuo... come si chiama? Vedo già l'intrusion col binocolo. Non necessariamente. È un po' una scompensa, posso aver fatto più o meno o uguale. Infatti, no. Lo utilizzerò proprio in un momento più disperato. Non per questo. Comunque, capisco... Sicura? Cosa c'è? Tanto ha un depletion di 1 di 100, usalo come caramella. Sì, ma lo posso usare ancora? Sì. Ah, io pensavo solo una volta Finché non si rompe. È un artefatto. Vabbè, allora sì, no, pensavo di poterlo usare solo una volta al dì. No, puoi usare ogni volta, ma per esempio se, non so, io tiro un 1 e tu scegli di prenderlo l'1, l'1 è peggio del 3, per esempio. Sì, immaginavo. Ok. Lo vuoi? Vabbè, dai. Proviamolo. Proviamo, guarda. Guarda nella chat. Dimmi che è un 1, ti prego, master. Vaffanculo. Bella, no, madonna. 19, wow. 19, effetto minore. Allora, osservi l'albero e ti rendi conto che la corteccia è probabilmente molto infiammabile. Brava, ok, Bruno. Era quello che volevo sapere. Bruciare gli alberi. Ok. No, infatti volevo capire se la corte era, cioè si poteva colpire oppure no, e se era infiammabile. Ah sì, vedi che l'erba intorno sembra infiammabile e la corteccia anche. Ok, perché avevo 2 idee in realtà. Comunque va bene, se volessi lanciare un artefatto... Tipo, questi sassolini di vetro li devo lanciare? Sì? Fai vedere. Hai messo di sì. Glass Flame Pellets. D85. Che cavolo era sta roba? Sì, probabilmente sì. Probabilmente devi fare una prova di... di lanciare. O devo appoggiarli. Sì, lanciarli. Dove vuoi lanciare? Allora, se 85. Vuoi... Sì, penso di sì. Che, cioè, ho scritto se lanciato dei sassetti... in gruppo per terra. Cioè, sì? Sì, quindi per terra vuol dire che come faccio? Devo essere vicina allora? No, no, puoi lanciarli. Cioè, fai una prova di speed o might. Sì, ecco, lanciati sul pavimento. Brucia per 28 ore, fa 6 punti di danno che a chiunque stia o passi nell'area. Sì, lo so, do fuoco a tutto. Intanto vi annuncio che sono riuscito a connettermi dal computer. Abbiamo visto che sei apparso. La sfida di questa sera, la mia sfida personale, è già come aver lanciato un D20 circa. Allora, faccio una prova di speed. Vai pure. Utilizzando due effort. Per colpire un albero fermo. Per colpire un albero fermo che non uscisce mai, Damiano. Tu lascia stai zitto. Allora, quanto sarebbe? Sarebbe 5? No, cos'era? Quanto è? 5? Sì, 5. Ok. Ok, allora tiro. Non è un artefatto, è un cipher, giusto? Un cipher, sì. Sì, scusatemi, non era un artefatto. Cosa ho detto che è un artefatto? Vabbè, vai. Scusate, vado. Ecco, più 2, sono difficoltà 4. Per un albero fermo. Ok. L'albero lontano. Ma quindi... dai, ma scusa, ma come? Mi hai detto che potevo tirare. Puoi, ma... devi mirarlo bene. Quello che succede è che lanci questi sassolini. Ma cosa vuol dire? No, beh, no, ma scusa, posso ritirare allora? Aspetta, lasciami descrivere cosa succede. Lanci. Non arrivi, pensavi di arrivare fino all'albero, però hai sopravvalutato la tua forza fisica e i sassolini cadono svariati metri prima dell'albero. Però vedi che prende fuoco tutta l'erba che è intorno. Il fuoco si espande anche sull'albero che inizia a bruciare. Ok. L'albero aveva appena fatto Nico sta a still. Comunque fagli 6 danni. Noti lo sguardo impanicato dei trucchi dei cosi squamosi. Ok. Ah, ok. Non è che gli stiamo tipo uccidendo la divinità. Probabile. Beh, non sarebbe. Abbiamo provato a comunicare. Ah, no. Scusate, tocca a voi. No, non abbiamo provato a comunicare, però. Fanculo, io faccio un. come si chiama? Un incoraggiamento sulla difesa, perché la vedo un po'. Okay. Difficile difendersi. Quindi. Alzo il mio scudo al cielo e dico: forza ragazzi, è solo un cacchio di albero, abbiamo un cervello più con la gola di fuori. E basta, questa è la mia azione. Ok, incoraggio la difesa. Chi tocca? Tocco i miei sassolini. Aspetta. Tocca a Nir. Sta a Nir, sì. No, scusate, sta ai tizi. Prima di Nir sta ai tizi. Vedete che i tizi si disinteressano completamente di Ash e iniziano a cercare di spegnere il fuoco intorno all'albero. Cioè, quanto tocca a me, aiuto. Nir. Ho uno dei tizi vicino. Guarda, pari. Diciamo sì, ce n'è uno che ti passa vicino. Ok, e lo accarezzo leggermente col mento. Ok, noti. Ti do come una visione. Noti che il fuoco che ha appiccato Nico inizia a spandersi, visto che eravate tipo con le gambe in mezzo all'erba alta. noti che preoccupantemente si avvicina anche verso di voi. Questo è interessante. Corollario, l'erba alta e secca non è dappertutto, diciamo è alla base della collina nella quale c'è l'albero, quindi secondo te il fuoco non si espanderà all'infinito perché ci sono dei rigagnoli d'acqua un po' dappertutto. Ok, intanto do la magliata al tipo che mi passa magliata di fianco. Uso lo spoggio di potenza, metto 2 effort sui danni, sono trainato. Ma vaffanculo. E butta la tua pix. Ma va a cagare. No, ci sta una bella GM intuition, è il momento giusto. Vabbè, tanto è un po' che non ti diverti, Master. Ok, allora, facciamo così. Gli dai una magliata, in effetti, e quanto danno gli fai? 12. Se l'avessi preso, ok. Se l'avessi preso, ne avresti fatti 12. Dammi un secondo, scusa. Mm-hmm. Vedi che lo spappoli in mille pezzi. Tra l'altro, ti accorgi che sembra quasi un fatto di vegetali. Quando gli stacchi letteralmente la testa con una magliata, vedi delle ossa spaccarsi, quindi c'era come un cranio umano, ma ti rendi conto che l'interno è diventato vegetale. Ok. Quello che succede però è che purtroppo, preso dallo zelo per picchiare questo, ti trovi avvolto dalle fiamme. Tutto intorno a te, bello. In pratica ha preso fuoco. Per il momento non ti fai ancora danno questo round, però sei circondato dalle fiamme. Ok. E il mio passo, 1.5 metri, lo faccio probabilmente verso Ash, a vedere se riesce a tirarsi su e andare fuori dalle fiamme. Ok, Ash, sta a te. Fammi una prova di speed a difficoltà 4 per, se vuoi scappare, per evitare le fiamme. Ok, ci metto un effort. Aspetta che non capisco più. Pico. Ma cos'è oggi? Ok, aspetta, ricordami giusto un dettaglio. C'hai 0 in might? Certo. Ah, non potevo mettere l'effort. Sì, poi, ma ti costa di più. Ah, no. No, non metto. E... Vabbè, fai uno lo stesso se vuoi, perché io ti ho incoraggiato, visto che utile che sono. Grazie. Sei difficoltà 1. Un po' stordito, non riesci ad andartene e ti fai 4 danni per il fuoco. No, muoio, faccio così. Butto PX. Master, non vorrei mi tradito nella piaga, ma sono 6 danni comunque. No, sei danni sono dove hai tirato tu i sassolini, quello dove è Ash e la sterpaglia che sta prendendo il fuoco tutto intorno. Ma c'è scritto che anche chi passa vicino ha quel fuoco. Grazie. Ma è passato. Ma è quel fuoco lì, Cri. Eh? Vabbè, okay. Cambio tutto, faccio finta di niente e attivo sta cosa. Che casino stai facendo? No, aspetta. Adesso. No, non si può, dai. E lì Pix, no. Per ritirare il danno non puoi cambiare azione. Allora scappo. No, ritiri il dado. Sì. Ok. Bella. Scappo velocissimo. Perfetto. Guarda, riesci a scappare e inoltre riesci anche a indicare a, se vuoi come effetto minore, ti propongo tipo un Nir, guarda dietro di te c'è la gli indici uno spazio ristretto ma nel quale può infilarsi per scappare senza bruciarsi. Okay. Faccio questa cosa. Scappo velocissimo. Ho di guardare le mie spalle. Ok, vedi, scappi veramente con col fuoco dietro e esatto, fuoco al culo. E corri verso l'uscita, immagino, verso dove sono gli altri. Sì, più distante possibile da tutto il casino. Dunque, round nuovo. Ti sei allontanato sufficientemente per non essere attaccato dall'albero. Ok. Nir, sei stato sei restato lì. Ho fatto un metro e mezzo e basta. Esatto. Quindi vedi che in mezzo alle fiamme c'è qualcosa che cerca di colpirti. Ok. E speed. Cioè, o meglio, non vedi, lo senti. Ma arriva. Sì. No, nel senso, fai la speed defense. Ok. Ok, senti sbattere qualcosa, in pratica una specie di grosso pungiglione nella schiena che ti fa 10 punti di danno. Ho 3 di armor, li conto, sì. Sì, contali. Quindi 7, o 2 a 9. Io mi sono preso 2 di questi, drone. Se non mi aspetti che ti facci le mie incitazioni molto utili. Va bene, no, tocca a me. Dunque, l'albero ha fatto. Sta a te e poi a Nico. Sì. Ok, io cambio strategia, per cui non mi sembra. Provo a intimidire i tizi. Ok, fino a che distanza arrivi con l'intimidire? Non è un'abilità speciale. Era un intimidire bar tipo. Ah, ok, proprio. Gli fai brutto. Sì, ignoranza. E sì, di ignoranza, mostrandogli il fuoco e che do fuoco a tutto se non smettono di. Se non fermano l'albero. Vedi che sono totalmente disinteressati. La sola cosa che stanno cercando di fare è spegnere il fuoco. Non ci stanno riuscendo troppo bene, bisogna dire. Fico. Bene, okay. Nico. Non ci avevo pensato questa cosa. C'è una serie, non sappiamo più cosa fare. Io vorrei capire come. Cioè, aspetta, adesso chi è che c'è vicino? Steel e Ash, giusto? Allora, Ash è scappato e sta venendo verso di te, quindi sì, si sta avvicinando, sì. Ok. E Nir per il momento non ha ancora fatto niente, però. Ma si vede dov'è oppure? Sì, è avvolto quasi dalle fiamme, vedi che ci sono un po' di fumo e vedi l'albero che ha preso fuoco, però Nir lo vedi ancora. Ok. Sembra che la cosa che abbia fatto più male all'albero, il fatto stesso che l'albero sia infiammabile, più che il fuoco che sia molto forte, perché sono delle sterpaglie. Diciamo che probabilmente il fuoco su Nir gli farebbe meno male di quanto stia facendo all'albero. Forse mi sono perso un passaggio, ma l'albero sta ancora attaccando o no? Ah sì, appena attaccato, appena menato, attaccato perché... Nir, ma Nir non si è mosso. Ok, io vorrei urlare a Nir, muoviti e vieni qui. Aspetto il mio turno. Non si può dire però. che cavolo c'è da fare? Io comincio a guardare la porta per uscire. Vai lì verso me. A me curati, cosa devo fare? Cazzo ne so. Non ce l'ho il kit. Non serve un kit. Per curare. Fai prova intelletto in base a quanti punti vuoi curare. Ah, ma no, serve un minimo di bend comunque, un minimo di calma comunque. Nira, state. Niente, a rigor di logica mi allontano dall'albero sperando che la supportata non sia quanto. Okay. La sta. Corri veloce o cammini? Posso cambiare arma. Che arma? Volevo mettere via il maglio e tirare fuori lo scudo. Sì, poi. Così, visto che non vedo un cazzo col fuoco e il fumo, mi tengo lo scudo parato, magari sulla testa, visto che mira il collo, sto stronzo. Okay. E niente, visto che a correre sono handicappato, vado indietro al meglio delle mie capacità. Ok, perfetto. Ash, che cosa fai? Continua a scappare. Ok, scappi e arrivi all'altezza di Nico e Steel. Ok, ottimo. Ok, e sì, gli avverto dell'albero, no, basta. vedete che 8 per schivare. Vedete che i tizi sono lì, stanno cercando comunque di spegnere un po' l'albero, ma c'è tutta l'erba, la serpaglia che sta prendendo fuoco tutto intorno, che sta rimettendo il fuoco all'albero. Sta all'albero che sentite come un lamento, sembra che stia, come dire, che abbia una parte senziente in esso, però non ti attacca, sei troppo lontano. Mir, vedete che le fiamme iniziano ancora a divampare ancora più forti sull'albero. Ma ci sono altre vie oltre in questa cupola o c'è solo? Sì, sì, no, c'è questa collinetta in mezzo dove ci sono questi, sì, adesso tre tizi e l'albero, ma tutto intorno vedete, tra l'altro, dalle sterpaglie ci sono della specie di topi che sono scappati. Vedete che tutto in giro ci sono anche dei ruscelli d'acqua, ci sono degli alberi con della specie di frutti e cose del genere. Ci sembra una vita lussuosa all'interno. Che cosa fate? Quindi in realtà bastava andare lontano dall'albero, noi siamo qui per lì. Ash si era allontanato dall'albero, ma i quattro tizi l'avevano seguito, per informazione. Mi sono un po' perso. Allora, abbiamo io, Nico e Ash, siamo vicini, lontani, sì, dal fuoco comunque adesso. Esatto, Nir si sta allontanando dal fuoco. I quattro tizi sono là che stanno cercando di spegnere l'albero, ma non ci riescono. Ah, quindi non c'è nessuno che sta seguendo Ash? No. No, no, all'inizio Nir ha detto bastava allontanarsi, gli ho detto prima c'erano i quattro tizi che stavano cercando di acchiappare Ash comunque. Cioè, di questa talità noi siamo apparsi qua, ma bastava essere fuori portata e succedeva molto meno casino. Esatto, bastava non fare uno. Esatto. Ok, vabbè, però i tizi bruceranno. Io faccio una cura ad Ash. Ok. Fai pure. Aspetta, una prova di intelletto. Mi devi dire quanto punti vuoi curargli. E quella diventa la difficoltà. Ok, si è messo tanto male, però. Quindi azzardiamo un 5. Sì. Ci metto un edge. Cioè, ci metto un effort, scusa. Mm-hmm. Mettiamo due effort che ce li ho, e quindi tolgo 5 meno legge. 5 meno legge, quindi tolgo 3. Sì, l'ho fatta. Ok, dovrei essere giusto. Bella merda. È troppo sbregato nel collo, non riesci a rattopparlo come si deve. Ok. Io che triste. Apprezzo. Vabbè, anche se avessi detto meno, ho fatto 1. La nostra guida? La guida è lì che sta. No, si tiene di sparte e sembra stia osservando le piante e il resto delle cose. Io provo a dare una mano anch'io ad Ash. Posso, sì? No, perché. Ah, già fatto. Sì. Esatto. Bene, allora mi avvicino a Cattol e gli chiedo se ha già visto questo genere di posto. Cioè, oppure questo genere di flora. No, sembra una flora strana, però non escludo che ci sia qualcosa di commestibile qua nel mezzo. Mm-hmm. Potrebbe esserci utile eventualmente per il proseguio del viaggio. Io ho catturato due topi. Commestibili, tra l'altro, i topi, sì. Non sono molto nutritivi perché sono dei topolini, però. Oh, poverino. Intanto che discutete con Catro, vedete che l'albero continua a contorcersi e bruciare. Dopo più o meno 5-6 round, vedete che l'albero smette di contorcersi e continua a bruciare. Notate oltresì che i quattro figuri smettono di muoversi. Sì. Smettono di muovere e sembrano prendere fuoco dopo un po' anche loro. Sì, erano tipo fatti, cioè erano la personificazione dell'albero, insomma. No, era gente che ha fatto la finestra per fare ash, secondo me, del cranio che ho sfondato. Però ha detto che quando l'hai colpito, dentro era fatto di vegetale. Dentro nel cranio, sì. E lui mirava al collo, vedi un po' te. Ah, quindi dici che era altra gente... E l'artefatto un passi. L'artefatto che ha usato Ash funzionava solo sulla gente viva, visto che il coso si chiamava tipo il nome dei poveretti era, aspetta che non lo trovo, quindi, ma c'era qualcosa, quindi corpse zombie. Quindi sì, tipo, corpse puppet, esatto, quindi la marionetta morta sulla marionetta morta, il coso che funziona sulla gente viva non funziona. Ah, io pensavo fosse una sua... Boh, a quanto pare ce n'è un altro. Quando dici ce n'è un altro, mi giro e dico cosa? Dovrebbe esserci un altro albero, perché avevo visto altre figure sotto le fronde di un albero. No, no, erano questi figure, erano i quattro figuri sotto quest'albero. Ah, ok, era questo. Ok, sì, pensavo ce ne fosse due. No, in giro ci sono un sacco di alberi, ma non come quello. Ok, io... Posso tirare un recovery e star lì in disparte per minuti? Ah sì, adesso vi dico, ha smesso di muoversi, quindi... Licarsi le ferite. Potete riposarvi un po' se volete. Ok. Mentre siete lì che... vedete appunto passare questa specie di piccoli ratti blu. Ci sono anche degli insetti con 10 gambe trasparenti e rossi. Beh, ma anche no. In giro ci sono dei funghi rossi, della specie di piante rabiccanti violette, e dell'erba un po' alta rossa. Beh, il fungo rosso mi ispira. Ma ovviamente. Allora, io intervengo per svegliare fuori Nico e dirgli che ha un bellissimo libro sui veleni e su quelle cose lì. Bravo. No, aspetta, ce l'ho. Mai... Aspetta, che non me lo ricordo più. Cazzo, tutta la fatica che ho fatto per farti prendere quel libro. No, mi avevano detto. No, ho la ricetta solo per quel. C'è la ricetta specifica. E che non ha questi ingredienti. No. E allora io mi diletto nel cucinare una zuppa con quello che trovo. Io dormo un'oretta. Ok. Che cosa vuoi assaggiare? Cioè, ti dice, guarda, lui il Cattle vi dice, secondo me, guardate, fra questa roba in mezzo alla potenzialmente edibile ci sono, beh, i topi mi sembrano piuttosto edibili, ma se vi ricordate erano un po' difficili da acchiappare. Gli insetti rossi trasparenti con 10 gambe, forse i funghi può essere. Come i funghi può essere? I funghi ogni tanto è un po' rischioso, però non lo so. Anche in Numenera. Anche ci sono degli alberi blu con delle foglie rosse e dice anche forse qualcosa lì si potrebbe mangiare. Ok, sì, lo faccio con gli alberi, i fiori che vedevo prima, le foglie blu, eccetera. Allora, no, aspetta, l'albero la corteccia blu. È blu. E ci sono delle foglie rosse. Sì. Smettila di toccare gli alberi. Farò con queste foglie rosse. E chiedo ad Ash se mi può dare un suo topo succulento. Ti do tutti e due. Io ti ringrazio infinitamente. Ok, comunque avevo già tirato e ho fatto una difficoltà 4 di, okay. di zuppa. Beh, hai fatto zuppa di difficoltà 4. Hai fatto una zuppa di foglie rosse e topi succulenti. Però non mangio. Non ci sono uccellini o cose del genere? Uccellini no. No, non ci sono uccellini, no. Lucertoline, serpenti. C'è quella specie di insetto rosso a 10 gambe. No, basta con questo insetto rosso. Sono grassi, sono lunghi tipo un piede. E si muovono lentamente sulle piante un po' più larghe. No. Più grandi. No. Quelli no. Preferisco i funghi. Ok. Sono dei bei fungoni rossi, sono un po' dappertutto. Ok, quanto dappertutto? Li trovi abbastanza facilmente, diciamo. Ok, quindi se io presuppongo che c'erano dei topi, questi topi che cavolo mangiavano? Mangiano, li vedi che mangiano un po' meno, però di percezione. Che cavolo, se loro mangiano qualcosa che... Allora ti mangiano erba? I topi non mangiano erba. Formaggio, sicuramente troveranno degli ottimi formaggi. Tiro con un effort. Quindi difficoltà 5. Ok. Vedi che c'è uno che sta rosicchiando uno di quei funghi rossi. No. E un altro vedi un altro che si sta sgranocchiando un po' della corteccia dell'albero blu. Ok. Vuol dire che sono commestibili per loro. Anche per te sicuramente. Beh, se mangi il topo, dopo te lo ritrovi in pancia, a meno che non puliamo anche il topo. Avevo, facciamo questa zuppa. Dai. Chi è che mangia la zuppa? L'ho fatta. L'hai assaggiata? Avete passato 20 giorni. Avete mangiato 20 giorni nel deserto. Mangereste la peggio merda. Sì, state. Io ovviamente quando preparo una zuppa assaggio sempre come un grande intenditore. Quindi okay. Sì, ho assaggiato la mia zuppa. Dimmi che ti sballa. È piccante, è molto piccante. Senti un po' il gusto del topo, però vedi che ti rendi conto che la foglia ha dato un po' un gusto un po' piccante. Okay. Dopo un po' senti dei crampi e degli spasmi muscolari, senti proprio lo stomaco si annoda a triplo nodo e sei piegato in due dal dolore. Prenditi 6 punti di speed damage e 2 di might. Pacca voglia. Non eri addestrato in zuppe. L'ho fatto però il gusto è buono. Il gusto è buono, è solo che dietro. Fatto molto buone. Arrivo subito. Mi assento un secondo. Molto bene, molto bene. Bene, dai. Nessuno vuole assaggiare le mie zuppe. Se l'assaggio io muoio. Cato dice: a mio modesto parere non è commestibile quella roba. Vaffanculo. Potevi dirlo a 2 minuti. Ma che raga. Però noto che, come dice, come mi ha fatto notare Nico, i topi stavano mangiando la corteccia dello stesso albero e non sembrano affetti da spasmi. Allora, o sono i topi che sono diversi, o forse la corteccia è edibile. Affanculo, Cato. Io faremo sta dash e mi sa che potersi essere ferito. Esatto, può essere, guarda. Tra l'altro siete tutti ammaciati, vi siete fatti il percorso nel deserto, non avete più mangiato da giorni, quindi se siete fisicamente vi sentite anche parecchio stanchi. Adesso vedremo se Nico si mangia la corteccia o il fungo. O la zuppa. Ho già mangiato tutti. Risponde che lei è curiosa, quindi si butta a capofitto senza pensare alle conseguenze. Ti ricordo quella volta che ha mangiato il vermone blu trovato per strada dopo il che non era male, tra l'altro, il vermone blu. Esatto, era pure buono. Cos'è che c'è? Io mi butto sul fungo se vedo che Ash sta male per il resto. Perché va bene che io non ho mai patito, perché avevo sempre trovato qualche cactus, però insomma... Guarda, lo assaggi, sono abbastanza buoni, però come dire, è difficile definire il gusto, non sai se sia salato è indefinibile il gusto. Avevi perso dei punti in might a causa della malnutrizione? No, perché io non ho mai fatto la fame. Ok, ti senti comunque pienamente ristorata, non, nel senso ti ha tolto tutto il poco di fame che avevi, non ce l'hai più. Mangio anch'io sta roba. Dico, ragazzi, andiamo di funghi, l'avevo detto io. Tra 3 minuti allucinazioni. Se avevate dei punti che vi mancavano a causa della malnutrizione, li recuperate tutti. Bella. Io mi salvo un paio di funghetti, cioè ne raccolgo un po'. Ok. Ma io sono, cioè, tipo morto nel frattempo. No, tu sei piegato. Sei piegato in due. Cioè, c'hai tipo la turista. Da fare, insomma, dai. Vomita. Ti faccio vomitare, Bruno. Ecco, due dita in gola, dico ad Ash. Esatto. Gli porgo un fungo, visto che sembra far bene. Esatto. E vabbè, io bevo abbondante acqua di ruscello. Ok, ce n'è dappertutto. Magari l'acqua è contaminata. No, l'acqua è pulita, ce n'è dappertutto. L'abbiamo bevuta fin qui, no? E dopo mangio un po' di fungo. Ok, mi recupera qualcosa o no? Se avevi perso dei punti dal malnutrizione, no. Sì. Dunque, no, però ti senti comunque sazio, cioè nel senso ti aggiusta leggermente lo stomaco, okay. Ma non troppo. Mai più zuppa. Avevo detto io di fare la zuppa con i funghi. Brava, è vero, giusto. Catherine vi dice. Vi dice, dovremmo fare qualche scorta, secondo me, perché qua il viaggio sembrava ancora lontano il nostro punto di destinazione, se dobbiamo tornare indietro. Sto già raccogliendo. Raccogli unicamente i funghi. Prendi un po' di zuppa, Cato. Maledetto. Non ti dice, no, grazie, passo. Tu e la tua... Ti hai fatto la zuppa, è pronta. Se ne è accorto comunque, non sei stato molto discreto perché l'effetto è stato immediato. Per fortuna che l'ha assaggiata, penso se la prendevamo tutti. Cazzo, devo rimanere l'unico sano. Va bene, ottimo. Ottima esperienza. Se ci vedo proprio col fare da intenditore... Oh, è buona, ragazzi, voi non sapete cosa vi siete persi. Che fai adesso? Vale la pena. Abbiamo fatto scorte, quindi. Sì, prendiamo un po' di funghi, direi. Prendete unicamente i funghi, ok. Sì, sì. Cibo. Quanto mettiamo? Quanti funghi prendiamo, Master? Allora, funghi direi che ne trovate almeno... Tanto da estinguerli. Sì. Se avete tipo un gestone o qualcosa, magari vi aiuto a portare roba. Che... Ci riempiamo gli zaini, dai. Riempite gli zaini e ne trovate... Diciamo che trovate almeno 2 settimane di funghi. Boia. Aspetta, c'è 2 settimane per tutti? Sì. Sì, perfetto. Se passate un po' di tempo, vi dice Cattol, qua non vedo minacce per il momento, secondo me dovremmo cioè, tipo organizzarci per anche per costruire qualcosa per trasportare sta roba, perché sennò Per trasportare cosa? I funghi? Eh beh, i funghi sì. Fare delle ceste, cazzo. Poi anche se, nel senso, il problema è che non so però se nel deserto terranno tutto questo tempo. Li secchiamo? Sì, se troviamo altra roba secca da portarci dietro non sarebbe male. E dobbiamo portarci dietro anche l'acqua soprattutto. Secchiamo i funghi. Io devo fare tipo un carretto, una slitta, qualcosa. Esatto, io sì, ma non abbiamo i cani. Chi è che la trae? Sono specializzato in trainare e non devo mangiare nel deserto. Cioè, lo traina Cato il pepe che così si che ha avuto lui l'idea e ce la tira lui. Adesso te lo tiri. Che stupido. Con me dentro. Dai, con te dentro allora non si muove. Corino. Metticato il che parte a cacciare qualche topo lui. No. Dice, ma che mangiare funghi per due settimane dopo un po' mi sarei stancato. Io comincio a raccogliere della legna e in modo da appunto costruire un qualcosa per trasportare tutto ciò che ci serve. Guarda, ci sono degli alberi in giro, per esempio quello lì che quello ha corteccia blu e foglie rosse. Se avete delle asce, avete qualche materiale per tagliare? Io ho il cowold che lascia subacqua, ma eventualmente sì. Tagliare lo stesso, no? Bene o male riuscite a sì. Ma io ho dei chiodi da rocciatore, un martello, quello che volete. Pinze, cacciavite, martelletti. Perché ti trovo? Piccolo piede di porco. Usala e costruisci una slitta, un carretto. Un metro di cavo, viti e chiodi vari. Madonna, ma perché tutta sta roba? Sono i kit base. Ah. Sono i miei kit base da Jack. Io ho scritto. Ok. Magari non riuscite a fare tipo una portantina, una roba del genere, però con i resti, con la roba che c'è lì, riuscite tipo a mettere nei sacchi abbastanza roba per trasportare due settimane di roba da mangiare e da bere. Io vorrei anche, se riesco, magari una piantina piccola. Prendere una piantina piccola? Sì, cioè, ma con le radici, cioè non morta. Sì. Ok, quale? Cioè tipo... Guarda, aspetta. Che scelta c'è? Ti dico, come scelta. Di sicuro non l'albero zombie. Ok, no, l'albero zombie ce n'era uno solo. Meglio. Allora, ti dico, per quanto riguarda i funghi è un pochino più complicato perché non hanno radici. No, ma quello esatto, i funghi no. Allora, era più ci sono delle piante rampicanti violette, del reed, come si traduce in italiano, non mi ricordo. Aspettami un secondo. C'ho connessione internet che è super lenta. Tento i furgoncini della team da canna. Ok, qui sono tipo delle canne rosse. Canne di bambù. Sì, tipo delle canne di bambù. Dell'erba no, rossa. Okay. Non sono rullate, queste sono. se no ci sono anche tipo degli inizi di quegli alberi con. Allora, esatto, prenderei quelli lì perché sembra che possano essere velenosi, nel senso che hanno fatto una reazione particolare. Potrebbero avere qualche, non so, potrei avvelenare qualcuno. Se cresce. E magari sempre piantine non tanto grandi, se c'è anche quella rampicante. Ok, guarda, fammi una prova di percezione. Se no, guarda, fai così, guarda. Spendi due punti di intelletto. Sì. E fai una prova di percezione. Ok, ho speso 2 punti di intelletto. E ho fatto 20, no, 19. Perfetto. Trovi sì, sia le piante arrampicanti rosse e Ok. anche una, c'è un tipo un bonsai di questo albero Oh, con che blu, blu e carino. rosso. Cioè tipo un giovane albero, dai, diciamo. Sì. Corteccia Però col blu. 19 ti dico che li trovi entrambi, però ti rendi conto che trasportarli nel deserto potrebbe essere complicato, se non avete qualcosa per preservarli in qualche modo. Mi butto nel buco portatile. Ma c'è un depletion roll dell'erba, del buco portatile, cioè. Va bene, allora niente, che maleducati. Abbiamo una persona nel buco portatile, per ricordarmi. Se riesco a fargli tipo, non lo so, una specie di isolamento con la muta dell'acqua. Oppure col mio Aspetta. sacco a pelo, non lo so, se c'è qualche... Non avete Non so niente a se è tipo livello se di il sole è troppo artefatti. forte. Ma aspetta, ma qual è il problema? Il sole, la sabbia? Cos'è il problema? Beh, il sole. È il sole più che altro. Ma scusa, ma cos'è corteccia? Non ho capito. No, poi prendo delle piantine, non so perché. Ma guarda, per le piantine però, se tiri fuori Einet e la rimetti dentro con le piantine, potresti... Appunto. Facciamo, vabbè, facciamolo dopo. Che sfruttamento tu. Una piantina per Però mano. devi ritirare un depletion roll. Va bene. Ma facciamolo dopo. Io volevo iniziare a portare fuori. In quel caso vale il mio artefatto in cui vale il dado del GM, del Game Master? No. No, non Ma per il come? depletion roll, no. È un artefatto contro un altro artefatto. Sì, ma nel senso. Se lo, Non ho non capito, lo ci avevo concedo provato. sul depletion roll perché sennò vuol dire che tipo per un artefatto devi fare due volte Sì, uno sì. su un dado da 100 per romperlo, quindi è un po' troppo forte. Però, fatalità, durante le piantine, dopo me le sento io le parole. Vabbè. Facciamo che passiamo la notte su sto posto e creiamo Ah, quello che volevo la svita, chiedere era eccetera. com'è il clima qui dentro. È temperato, cioè freschino, cioè c'è un pochino di Ok. umidità, vedete che c'è un po' di nebbiolino un po' dappertutto, ma è dovuto al fatto che ci sono dei ruscelli un po' dappertutto, niente di inquietante. Sentite comunque c'è parecchia vita, ci sono i topini che scorrazzano a sinistra e a destra, quelle specie di grossi cosi trasparenti, grossi un piede che si muovono a sinistra e a destra, anche quelli, quindi sentite un po' di Anche movimento. perché, scusate, voi dite tanto, ma scusami, Enet la lasciamo dentro tutto il tempo? Beh, sì. Non la facciamo uscire neanche quando siamo qua salvi? Che crudeltà! Hai Per prendere aria, capito cos'è? l'escamotage del master per non dover gestire un PG che non c'è? Non complicare le cose. Quello l'avevo capito, ma era solo tipo per farla uscire. È tipo in stasi temporale, boh. Dai, è bello perché dopo possiamo raccontargli Sì, un sacco di Anastasia. cose che non è vero. È che dopo si spacca la roba, c'è cioè anche quello che devi tenere. Infatti, non possiamo rompere questo bellissimo artefatto, quindi silenzio, silenzio. E io accolgo l'idea di passare qui la notte. Mettiamo in un posto che non Ma sembra. si capisce quando c'è la notte, cioè non c'è notte e giorno qua dentro. Sì, è leggermente trasparente Ah, il dom, sì. ok. Vabbè, se volete io mi preparo per dormire, quindi metto il mio pigiama. Io dormo. Grazie anche Io alla mi prendo presenza quello di delle. Cattol, vi sentite comunque rilassati per dormire. A casa nostra. Esatto. Sì, tiro anch'io. Farò un po' la guardia, tipo. Ma che schifo! Foto. E l'ultimo. Comunque mi prendo anche cura delle mie piantine prima di dormire. Mentre infatti il recovery roll torno subito, eh. Vado a prendere un po' d'acqua. Mm-hmm. Cioè ho fatto 3 e poi 8. Ottimo. Pensati. Vabbè, ma avevo solo l'intelletto intaccato e la speed, ma di poco. Comunque devo trovare un modo per far sopravvivere queste piantine. E dopo le diamo a Enid. Se non troviamo una soluzione per uscire, vado avanti portando gente dentro il buco. Ma che sia il caso di farsi un ombrello? Sì. Un ombrello per... Ah, per l'ombra? Per il sole. E con cosa... C'è il bambù, le foglie... Magari trovo delle foglie larghe. Così non mi prendo un'insolazione. Ma puoi proporlo, sì. Che ci stiamo caricando come dei muli, sì, ma cioè, cercato il che le porta. Dobbiamo trasportarle ste cose, cioè voglio dire. Abbiamo Rieccomi. Ci siete? Adesso mi sentite? Nine. Ah, piano, pianissimo. Dovreste sentirmi adesso. Sì. Adesso sì. Ah, ok, perfetto. Ok, quindi avete già fatto i recovery roll? Sì. Ok. Perfetto. Giorno nuovo, vi siete risvegliati. Molto più riposati. Ah. Sì. Sì, volevo farmi un ombrellone. Un ombrellone, cioè, come? Artefatto ombrellone. No, praticamente se c'era una foglia di grossa taglia, sì. Magari c'è una fogliolona, ecco, mi prendo tipo per ripararmi dal sole del deserto. Sì, sì, volendo, sì. Ecco, sì, allora ne prendo un paio. Ok. Magari se riesco... no, ma tanto comunque... No, niente. Va bene, ne prendo un paio. Ok, hai un paio di foglie grandi. Sì, sicuramente poi Enet apprezzerà la cosa, solo che sono in minoranza, quindi va bene. Chiedo a qualcuno se vuole un ombrellone. Sì, io provo a piegare la foglia in modo da crearne un cappello. Ah, ecco, perfetto. Ok, tu trovi tipo una specie di banano. E riesci, esatto, a piegarti la foglia tipo barchetta, per esempio, o tipo cappello da muratore, esatto, fatto con il giornale. Perfetto. Ok. Che stile. Mucho bien. Ma parlando di lettighe deserto, questo l'abbiamo costruito noi. Ah, ok. Quindi abbiamo costruito questa cosa. Potreste, sì. Ok, come uscite? Potrei fare avanti e indietro col buco portatile se non troviamo un altro modo. No, come col buco portatile? Cioè, mi date il buco portatile, io passo attraverso la parete Lo svuoto fuori, torno dentro, E via di carico deposito il qualcuno, riporto fuori. portatile durerà poco, sappiate. Secondo me ci mettiamo tipo mezza giornata solo per... Ma non diceva che bruciando ci sputava fuori? Anche, ma come facciamo a fare evaporare? Abbiamo fatto un incendio prima, cazzo. Eh no, ma era Dovremmo tipo farne super uno. rapida la cosa, era proprio vaporizzare, non è bruciare. Vaporizzerò l'aria. Vaporizzare. Ma scusa, aspetta. Quando tu esci, lui non buttava dentro roba. No. Se tu esci in fase, no? Qualche ragione no. Ma se lo sfascio e basta? C'è il master, dov'è il master? Sì, ci sono. Master. La sta L'ultima ridendo volta. per la vostra mancata intelligenza. No, l'ultima volta sei entrato, ma passando dalle pareti. Sì. Se E passi non è dalle successo pareti... niente. No, perché si vede che... Boh, Esatto, tu vai fuori. poi mettete davanti. Noi ci mettiamo davanti, tu entri dentro e noi usciamo. Esatto. Però prima devi diventare tanto tanto ciccione. Come si usciamo Vabbè, tutti? per portare Nir servirà a buttarlo dentro il buco. Ah, giusto, tiriamo fuori l'inetete. Oppure... Aspetta, Nico, fammi una prova Intelletto. di internet. In Ci metto questo un momento mi sta effort. mancando. Ci metto un effort. Ecco, appunto, ho fatto due. Ok, stila anche tu, per cortesia. Io non metto l'effort perché non serve. Bam! Ma vaffanculo. Ma va, Se devo richiamando, okay. Potevi tirare tu prima. Beh, Nico, tu eri troppo concentrato sul fatto di aver lanciato i sessolini per renderti conto che in effetti quando la sterpaglia ha iniziato a bruciare, grazie al fatto che gli avevi dato fuoco, ha bruciato molto velocemente e Steel ti si è reso conto che l'Iris dietro stava sputando roba di fuori. Ah, ma anche bruciando e basta. Ok. La sera precedente vi siete fatti un fuochetto di campo. L'Iris non ha sputato. Cioè, nel senso, avete l'impressione che debba essere un, come dire, Uno qualcosa che brucia, sconvolgimento per qualcosa la che fine. brucia rapidamente. Cerchiamo altra sterpaglia. Ok. Quindi prendiamo tipo tutta l'erbaccia. L'erba secca e quella roba lì. Prima Oppure... di fare una bubarata, cerchiamo di capire il modo più veloce per far evaporare materia, cioè l'acqua, ad esempio. No, forse Non è no. Troppo troppo pensato. infiammabile in generale. È molto infiammabile. No, perché io ho un cipher che è un esplosivo, detonation flash warping, che però cioè, esplode la roba, quindi non so se effettivamente Eh no, quella serve viene a per mancare. storpiare la carne piuttosto. Esatto, quindi no, non farebbe tanto. E se noi ce l'hai dell'alcol? Sì, poco. Proviamo a sfondare sta porta di merda. Cioè, ho una cazzo di papo bibita, ma non credo faccia sia molto. Faccia una grande Comunque, moto. no, io ce li ho i fiammiferi per quello, eh. Vabbè, allora costruiamo un rastrello, tiriamo su foglie finché. Vi siete le canne rosse erano molto infiammabili, lo sapete, l'avete visto perché c'era l'albero ha preso fuoco grazie a quelle soprattutto. Io direi cerchiamo un albero molto grande, ci mettiamo vicino alle canne e diamo fuoco in modo che prenda fuoco l'albero che è grande. E accendiamo le canne Sì. e fumiamo. Evitiamo che non sia un albero come quello lì. Beh, vabbè, tanto gli diamo fuoco. No, ti prego, fa che le canne se che fanno fumo. Sono delle canne afghane. Quindi qual è il piano? Come vi mettete? Allora, raccogliamo le canne, tagliamo un po' di queste canne, le appoggiamo, troviamo l'albero più ciccione che c'è. Le rulliamo. Ok. Le appoggiamo a questo albero. Gli diamo fuoco. Gli diamo fuoco. No, no, fiammiferi. No. Mettetevi davanti la porta, dopo fuoco io sta roba qua. Ah, ma sì. Bravo, bravo. Sì, volevo giustamente vedere quel piccolo punto lì, perché date tutto, a fuoco tutto, sentite da dietro un cosa aspirare. Ragazzi, ci abbiamo fatto, abbiamo bruciato tutto. Quindi, prepariamo la gran bubarata, voi andate tutti belli davanti alla porta, lasciate indietro e io provo da fuoco. Ok. Okay. La gran bubarata. Sì, per chi non sapesse cos'è la bubarata, è un insieme di sterpaglie qua che si fa in Veneto. Quando si fa alla Befana. Alla Befana, per sì, ma solo dalla vostra parte, dai. Anche da voi, il pane vino. Ma non San la chiamiamo la bubarata. No, non la chiamiamo la bubarata, la chiamiamo brucia la vecchia. Ma... Vabbè. Sì, vabbè. Un cumulo di sterpaglie che si brucia. Fugherada. È la focarina, sì, la stessa cosa. Vabbè, è sua... decisamente più bello, però scusate, ognuno ha la sua variante. Non c'è mai. Bene, quindi tutti vicino alla porta. Vabbè, facciamo questa grande cosa. Io ti passo dei fiammiferi. Grazie. Poi mi dici quanto. Te ne do 10, per favore. Bestia. Perfetto. Quindi sì, passate la mattinata a tagliare delle canne un po' dappertutto e accumularle in un unico posto. Addosso un albero grosso. Addosso un albero grosso, ok. Ok, boh. Facciamo sta cosa, vi siete davanti. Io sì, spostiamo anche il nostro carico, tutto. Sì, tutto. Ok. Siamo pronti? E provo a bruciare sta roba, devo fare una prova di che? No, niente, te lanci semplicemente il fiammifero nel mezzo. Accendere il fiammifero. Che cazzo ne so? Te lo do a difficoltà zero, dai, per accendere un fiammifero dovresti farcela. Su, fa prova in un'era. Togliere un'intromissione, master, e vai in autocombustione spontanea, tipo... No, riesci a accendere in effetti il fiammifero? È molto molto infiammabile questa la sterpaglia, e vedi che parte praticamente in fumo in qualche secondo, in una manciata di secondi tutto viene bruciato. Senti da dietro una specie di risucchio e gli altri vengono catapultati fuori. Perfetto, ottimo. Quindi sono da solo dentro adesso. Quindi sei da solo dentro. Ok, scorreggio addio, addio. No, basta. Ok. Avevo visto dei morti la volta scorsa, tipo sì. Essiccati. Volevo vedere, fare un cercare attorno a sti qua. Cazzo, non l'hai detto quando eravamo tutti lì, maledetto. Bastardo. Maledetto. Trovo niente. No, purtroppo hanno solo tipo della roba, solo dei vestiti, nient'altro. Ok, non riesco a smontare sta cosa, abbiamo detto. No. Provo a smontare per l'ultima volta la porta, magari becco qualcosa. Provo. 5, no, il meccanismo 5. È troppo complicato, non riesci a cavare niente dal buco. Vabbè, dai, mi metto là tranquillo e mi spaso. Vedete che piano piano dall'altra parte vedete la testa di Ascio uscire dalle mura di questo dom, di questo semisfera. Ok, abbiamo portato questa è l'origine della luce verde, giusto? Era più vedete ancora. Sì, vedete in lontananza verso l'est una specie di pinnacolo verde, e sembra che al di sotto di questo pinnacolo ci sia una specie di semicerchio di luce all'orizzonte. Io sembra essere due o tre giorni di camminata da dove siete. Andiamo là o torniamo indietro a portare cibo agli altri? Ah, cazzo, è vero che qui. Col Ma perché cazzo. se dici? Ma scusami. No, ma guarda che sono la direzione in cui noi dobbiamo andare dall'altra parte. Sì, lo so, ma noi abbiamo funghi solo per 2 settimane, ce ne abbiamo messe due per arrivare. Abbiamo ci posso tornare indietro. Sei scemo o cosa? Allora, ma soprattutto sti funghi li abbiamo portati fuori, vero? Cioè, Sì, questo anno. sì. Insieme alle mie due piante. Quindi andiamo a vedere con la c'è luce verde prima di tornare indietro. È per forza! Direi di sì. Avrà fatto tutto sto casino per questo. Vabbè, i topi di me. Oh, pensavo fossimo andati a funghi. Vabbè, ovvio. Funghi che non ci bastano neanche per il ritorno, sì e no? Poi dopo 2 settimane, io mi dispiace di questa brutta notizia, ma non so come siano presi quei poveri superstiti in mezzo. Che è un mese perché 2 settimane di tornare. Vabbè, allora saranno morti, andiamo solo in una direzione. Ce n'è solo una. Sì, io mi metto il mio cappellino da muratore in testa e dico, bene, riprendiamo il nostro viaggio, amico Catol. Io prendo il mio ombrellone. Ok. Io prendo il mio nuovo caretto. Grazie. E io mi metto sopra il caretto. Senza farmi vedere, là. Io non me ne accorgo e tiro. Sì, sotto le foglie che abbiamo usato per nascondere, che cazzo ne so, proteggere i funghi dal sole. Mi metto là sotto senza che la gente mi veda. Ma no, i funghi si devono essiccare. Con le Ah, e foglie avvelenate. allora mi metto sotto i funghi. Pensa se ci attacca qualcuno? Effetto sorpresa. Se ne va via sconsolato. Beh, non vedete nessuno per il momento intorno. Vedete solo un deserto fatto da rocce coperte da una specie di pulviscolo rossastro. E mentre vi muovete a est, vedete che questa strana fioritura di luce in distanza continua a aumentare in intensità nel cielo. La notte, arrivate fino alla prima notte, e vedete che in distanza c'è un'enorme specie di fungo fatto di blu e rossi e verdi che danzano attraverso tutto il cielo. C'è un fungo nel cielo? No, è la luce che fa una specie Ah, di del cupoletta. fungo. Ah, ok. Sì, immaginati una cupoletta. No, Non è che vediamo funghi dappertutto no. adesso. Ok. E durante il giorno seguente, sembra una specie di splash circolare di luci rosse all'orizzonte. Cioè, adesso è diventato rosso? Vedete che ci sono la spira centrale è sempre lì, ma vedete che i Verde. colori variano tra il giorno e la notte Ah, ok. nel cielo. Nel frattempo posso anche cercare magari qualche cactus che non si sa Cerca, mai. così fai una prova di cercare. Sì, senza. Cioè, ho l'abilità giornaliera che era cercare, ovvio. Tanto lascio sempre quella. E vai! 18! Ok, trovi in effetti un giorno di provviste, ma trovi anche in lontananza, ti sembra essere un corpo inginocchiato verso l'est. Ah, ok. Ragazzi, Corpo vivo o morto? vedo qualcuno più avanti. Molto molto in distanza, molto in lontananza. Ah, ok. Vedo qualcuno lontano. C'è qualcuno? Ti accompagno se vuoi. Come ti accompagno? Non andiamo in quella direzione. Potiamo anche girargli intorno? lontano sarà comunque raggiungibile in poco Sì, sì, sì. tempo, no? È solo molto lontano per... Sembra chiaramente una figura umanoide inginocchiata. Andiamo tutti, Gli vado incontro impugnando l'arma, giustamente. Ma Beh, tu stai trainando il carretto. carretto? E lo mollo un attimo. Non puoi! Mentre ero sul carretto io mi sono posato. Su lui tira il carretto. 3, 5, Vabbè. 8. Ok. Casomai è Catul che prende in mano il carretto. No, no, lo prende Ash, visto che ci siamo accorti tutti adesso che per punizione si ti trascina il carretto Ash, tira il carretto. tiro il carretto, faccio la prova di Might, a caso. Fuori, perfetto. Ce la faccio. Perfetto, tiri un po' il carretto. Già in lontananza, ti rendi conto, Nira, che c'è un po' di polvere che si è accumulata nel lato sud di questo corpo. Sembra che non si sia mosso in effetti da molto tempo. Ti avvicino ancora di più e ti sembra essere un... Dimmi tu, vuoi arrivarci proprio a contatto? Ah, cazzo, Mir? Pardon, scusate, distratto. No, Vuoi... mi avvicino tipo a distanza breve e provo a Cioè, tipo a 5 metri? urlare. Sì, guardo se è vivo. Non Sì, mi no, sembra vivo. Sì, ma... è un cadavere Ok. vestito. Fatemi una prova di percezione, Percezione. di intelligenza, se no sì, di intelletto. Però che siamo. Era più facile se c'era Einet, ma diciamo che Sì. comunque riuscite, no, ma nel contesto, riuscite a vedere che è vestito con dei vestiti che sono tipici della città di Ki, ma sembrano, come dire, passati molto di moda, sembrano dei vecchi, vecchi, vecchi vestiti, cioè tipo immaginate le zampe dell'elefante ai giorni nostri. Ok, da quanto tempo sembra morto? Cioè, è scheletro Tanto, tanto tempo fa. o... Ok. Ok, frugo a vedere se è roba utile addosso. No, io frugo visto che l'ho L'ho visto detto io. prima io. Ma Fruga, scusami! frughi e vedi che non ha assolutamente niente di interessante addosso. Ecco, Contenta? Io guardo nella direzione dove stavo, dove è inginocchiato, e cerco di capire. Era tipo Verso in l'est. preghiera o Beh, più aveva tipo accasciato? la testa leggermente reclinata ed era inginocchiato. Sì, cosa potrebbe averlo ucciso? Infatti, volevo vedere se ha segni sulle ossa. Ok, Non ha particolari segni sulle ossa. può essere stato il deserto. Il deserto? Sarà rimasto senza acqua e cibo. Ed è morto inginocchiato. Tinese Nocci e sega in cucciolì. Ciao, era sfinito, si è inginocchiato. So, bello questo dialetto veneto che esce in questo momento di... Senti, è la lingua dei sassi, tu non capisci. Ok. Steel, che cosa stavi dicendo? Io volevo guardare nella direzione in cui lui era inginocchiato, se c'era Verso est. qualcosa. Verso Sì. est, e noti che verso est ci sono delle altre silhouette che sembrano essere in un simile stato. Oh mio Dio. Ma sono tipo in fila, guardano tutte nella stessa direzione. Non sono in fila, ma guardano tutte nella stessa direzione. Master, io che ho viaggiato con le Verso carovane, l'est, stanno eccetera, tutti guardando, scusate. so cosa sono i pellegrini. Tutti sì, sai cosa sono i Ok. pellegrini. E perché adesso non me lo ricordo io realmente, ma sono quelli che seguono tipo una via tracciata nel mondo, No, una roba del genere. no, c'è un pellegrinaggio molto speciale che passa nell'oltre in una via, ma non è raro che ci siano dei pellegrini in generale, già la gente che in preghiera si sposta, eccetera. No, ma c'erano quelli che seguivano la via, proprio mi ricordo Sì. qualcosa. C'è. Può venirmi in mente una roba del genere di sti qua? Eventualmente, sì. Io ho due cose da chiedere riguardo a questi cadaveri. Il primo è l'età, cioè se ce ne sono altre, immagino che andremo a vedere anche le altre. Sì. Allora, vi avvicinate e vedete che in Sì. effetti sono tutti inginocchiati in una posizione simile, sempre con la testa reclinata all'indietro. Alcuni di questi corpi sembrano rinsecchiti da tempo immemorabile, hanno tipo la pelle carta pecorita, altri sono addirittura degli scheletri ricoperti da frammenti di vestiti martoriati dal sole e sembrano essere, come dire, sparpagliati in giro, ma in forma vagamente circolare, quasi come i sedili in uno stadio, cioè i posti a sedere in uno stadio. Ma tipo dal loro vestiario, riusciamo a capire se erano soldati, se avevano armi? Non vi sembrano. C'è un po' di tutto. Ok, quindi è generico. E anche tipo si riesce a riconoscere se c'erano donne e uomini indistintamente. C'erano donne e uomini, sì, entrambi. Ok. Bambini no, ci sono. Sembrano tutti uomini e donne. Pellegrini forse? Direte che sono a cerchio, giusto? Sì, tipo a anfiteatro, vagamente. Cioè, tipo, Quindi. sembrano essere tutti rivolti verso la stessa Punto. direzione, esatto. E al centro vediamo qualcosa. Beh, Io lascio vedete che la marcata direzione è vagamente quella della luce. della luce. Ragazzi, andiamo verso la luce. Cavolo, ma è inquietante questa cosa. È molto. Ok, io mi dirigo verso guardando i miei piedi. Testa bassa. Vedete comunque ce ne sono delle dozzine di questi corpi, non sono due o tre, ce ne sono veramente svariati. Tutti in ginocchio. Guarda, chiedo a Cato che è uomo dell'universo che sa cose. Se esistono robe, come si dice, che ti mandano in trance e ti lasciano là a morire di fame, sete, si è sentito queste luci. Sì. Fammi pensare un secondo, eh. E sentite tling, tong, clong, come una specie di Macchina. rumore a tre note, Si è riavviato se, qua. che sembra provenire da direttamente dietro le vostre teste. Aspetta che avvio una ricerca su Google. Come le nostre teste. Infatti. Sì, è un rumore così improvviso e perfetto, e vicino che per qualche istante pensate, forse l'ho immaginato, ma quando vi rendete conto che tutti si stanno guardando intorno, vi rendete conto che questo rumore che avete sentito proprio provenire, sembra proprio dietro di voi a qualche centimetro, sia in effetti reale. Beh, io non mi Mi giro. giro. Vi girate e non c'è niente, c'erano i corpi che erano sempre lì. Cristo. Ok. Tlin tlon Questo ascio. chiedo a Cato se l'ha sentito anche lui. Ah, sì, l'ho sentito anch'io. E ne sai qualcosa? Eri tu? Ah, no, no, no, non ero io. No. Non ne ho idea. Sentite. Mi giro verso. Vedi che Guardo il uno. cadavere che abbiamo mosso prima. Quello che. Siete un po' lontani, ma vedi che un altro degli corpi si muove leggermente. Devo stare tornando dietro nel tempo. Che cazzo. Io estraggo la katana. Io estraggo. Io avevo già il maglio in mano da prima, ora lo sto alzando. Io Io tiro mi lì. avvicino amichevolmente, senza niente alzato, a questa persona che tossisce e la Mal di osservo. gola? Beh, vedi che in effetti è una persona, Forse sembra qua. vedi che è riempito di polvere, ha gli occhi spalancati e sta guardando fisso verso la luce. Gli chiedo, buongiorno signore, come sta? Tutto ok? Capacità di dialogo mille. Nessun, sono. nessuna risposta. Io mi metto davanti. Vuole dell'acqua, signore? Ok? E gli metto davanti agli occhi la bottiglietta. Come se Io mi non. metto da. È come se tu non fossi Cioè. lì. Neanche se ti Gli metti tiro uno davanti. schiaffone col might, cioè Ok. tantissimo. Vai, No, ma metti. Capitano, sei. Lo Lo cappotti. uccide. Lo cappotti, vedi che dice tipo e si mette le mani sulla testa. Muore. Ok, lo piglio di peso e lo faccio girare parte dove cazzo stavo guardando. E lo metto a sedere, cioè che se stava guardando Giralo a proprio dalla est, luce. lo metto a ovest, hai capito? Ok, lo metti a ovest, ma vedi che non ha assolutamente nessuna reazione. Ma e le pupille continuano a guardare dritto? Sì, nel senso ha lo sguardo perduto nel vuoto. E continuo a parlargli, signore, tutto ok? Mi ha sentito? Come se tu non fossi lì. Ah, cazzi suoi, allora, che devo fare? Ma lui. Questo sembra in trance. Cioè, non ho capito Sembra quanto quasi in trance, giovane è. sì. È difficile dirlo perché è talmente martoriato dal sole che non lo sa. Non è un bambino, vedi che è un Ok, ma adulto, i ma vestiti tipo? sono ricoperti di polvere, però non. E a livello di stile? Sembrano piuttosto moderni. Ah, ok. Prova a guardare se ha qualcosa addosso. Faccio un cercare. Vedi, ha qualche scin. Ha un. Vabbè, qualche scin, chi se ne frega. Beh, mi metti in tasca, quanti ne trovi? Ma scusami, ho cercato io! Tu hai cercato te, cercato io, A tre scin. cercato io, ho detto cercato. Ok, vieni Ti in prendo tasca. io e trasci, così smettono di litigare. No, Cosa col vuoi? Tu cazzo. hai il maglio in mano. Appunto perché ho il maglio, dovresti darmi trasci. Io me li sono intascati, ho fatto anche finta di non aver trovato. Ha armi. No, non armi. E niente documenti, niente di niente. Assolutamente niente. Cioè, sì, ha della Lo. roba, tipo degli scina, tipo in tasca, un cacciavite, una roba del genere, Ma ma niente di non strano. documenti, non scritti, niente. Master. Neanche voi ce li avete i documenti. Sì, dimmi. Lo prendo per le spalle o per la collottola e lo scuoto vigorosamente per parecchio tempo e poi vedo se c'è del movimento in quegli occhi spenti. Continua cioè, tipo lo scuoti e vedi che il corpo è molle, non oppone alcuna resistenza e gli occhi continuano a essere quasi vitrei. Ok, prendo un po' d'acqua e gliela butto in faccia. Nessuna reazione. Ma porca puttana. Se gli Scusate. spezzo un dito, tipo. No! Sì, Oh, magari una beh. scossa di dolore lo fa rinsavire. Sì, ma gli Può fai un essere. taglietto, non gli spezzi un dito. Spezza di un dito, non è No, ormai. gli fai un taglietto. Comunque gli spezza il dito, è una roccia gigante, ce Io ma. cerco di fermarvi tutti e gli copro gli occhi. Bravo. Anch'io l'avevo fatto. Gli hai coperto Ah. gli occhi. E lui non ha reazioni di nessun tipo. No. Ok, Avevo. lasciamolo qui. Se vuoi dargli un altro ceffone, Asher, dagli pure. No, gli do una morte rapida e veloce. Io suggerisco agli altri di non guardare la luce. Magari lo salviamo prima di dargli una morte rapida. Ah, Tanto comunque, anche se muore, magari non la Io senti. potete ucciderlo, questo povero Cristo. Vorrei, Lo so, parla che muore di è amico tuo sto fame. qua, eh. Cioè, vabbè, gli abbiamo spezzato un dito, ha fatto qualcosa? Assolutamente Ma niente. Hai ha sentito un croc, però non ha torturato. reagito. Ok, e Ok, se tiro gli diamo fuori. un po' di funghi? Sì, diamo fuoco. Secondo chiamava dei carnefici, tu? Ma che cazzo mi chiama? Porca troi, parli tu che volevi spezzargli un dito? Io ti volevo, ho detto ma non l'ho fatto. Ash, sì. Io sì, io l'ho spazzato. Ok. Si riesce a dargli da mangiare o da bere? Vedi che la bocca è aperta così, non sembra, cioè nel senso non gli metti un pezzo, gli metti un pezzettino di fungo in bocca, ma non reagisce, non e mastica. Neanche beve. Non beve neanche. Che ho trovato un po' di cactus. Non sembra bere. Cioè nel senso gli metti l'acqua in bocca, vedi che quasi si strozza, però nel senso non fa una cioè, adesso gli avete fatto di tutto, fuoco, strangolato, cioè morente. Ash pisciagli addosso e così le hai fatte tutte. No, io lo uccido. Allora, vabbè, io vi dico di non guardare la luce, ma magari, non lo so, potremmo avvicinarci alla luce senza, cioè magari coprendoci con la foglia, quelle robe lì, per non guardarla. Sì, però io ho ucciso tutto. Ma se andassimo via da qui? E dove cazzo andiamo? Non c'è niente. A ovest. A ovest cosa c'è? La direzione dovevo mandare. Sì, ma tanto ci mettiamo 3 mesi a andare di... Ma vero, non c'è la morte? Ma come la morte? Solo delle persone che hanno fatto una scelta di vita. Non ha neanche una mappa questo? Cioè, no. Frugando in tutti i cadaveri, non c'è neanche una mappa. Vedete che hanno oggetti di uso comune, quello che potreste avere in tasca voi, ma non hanno né mappe né niente del genere. Aspetta, io sento qualche... Beh, faccio un ascoltare, sento qualcosa, qualche rumore strano. No, se senti il vento che soffia nel deserto. Ma allora, il primo rumore che abbiamo sentito a cosa apparteneva? Non ne avete idea. Cioè, la tosse è una cosa, ma cos'era quel rumore? Cioè, sto parlando anche con gli altri, ovviamente. La luce li ha risvegliati. O che siamo tornati indietro nel tempo e Cicciolino sono tornati indietro di qualche giorno che è ancora vivo. O boh. Ma no, secondo me la luce li ha risvegliati. Però... Con quel rumore? Era un rumore. Vabbè, sì. Si può riprovare a riprodurre le note? Non so, con la voce. Provo. Si può, Master? Provi a canticchiare, canticchi qualcosa che assomiglia vagamente a quello che hai sentito. Ma non però succede niente. No. Sembra solo una pasta che canta nel deserto. Esatto. Vabbè, io impazzisco, guardo dove guarda lui. Vedi, c'è la luce e vedi che ci sono parecchie altre persone inginocchiate. Ah, ma vive? Non lo sai. Ancora altra gente. Sono lontani. Quindi. Ma ti avvicini dopo un po', inizi a camminare. Sì, ti rendi conto che in mezzo a gente morta c'è anche della gente che è ancora viva. Ah, e continua a tirare schiaffoni, vedere se qualcuno continuiamo a qualcosa. Ammazziamoli tutti. Col tuo metodo molto scientifico, ti rendi conto che il risultato è sempre lo stesso. Cavacca. Che faccio, Moretti? Tipo non ucciderli ancora. Qualsiasi altra cosa. Ragazzi, allora, ma non vi sembra strano che ci siano delle persone in mezzo a un deserto? Che non abbiano niente di adatto per fare una specie di spedizione o qualsiasi altra cosa? Semplicemente è gente come noi che ha seguito la cazzo di luce e che non sa dove andare, quindi è andata verso la luce e adesso è rimasta qui, però noi abbiamo i funghi e possiamo mangiare. Ma sì, comunque ma Ash ha guardato la luce? Sì, ha guardato la luce, ma non gli ha fatto. Quindi non gli è successo niente? No. Allora andiamo addosso alla luce, ragazzi. Dai, andiamo e vaffanculo. Andiamo addosso alla luce, fregandoci della gente in mezzo a morte. Continuate che... La partita finirà con noi inginocchiati. Sì, ma la cosa che non ho capito, cioè questo modo di inginocchiarsi è naturale oppure è proprio specifico? No, sono tutti inginocchiati allo stesso modo? Sono tutti inginocchiati... puntano tutti più o meno nella stessa direzione, sono tutti inginocchiati così con la testa un po' reclinata. Aspetta un attimo, ma... Io ne prendo uno, cacchio, foglio e guardo se ha non so, Una segni bella che gli gnocca sia in faccia, entrato poi magari, no? Un qualche. tipo a caso. Nessun segno di intrusione esterna. Cioè, tipo che gli sia entrato un vermone di quelli grossi che gli prende il controllo del cervello, no? Niente. Guardando così non ti sembra che ci sia traccia di E vermi. osservando meglio con un 4 di intelletto. Niente. Niente. Niente di particolare. Ti Tatuaggi, niente. sembra Collane. normale. Cioè, è chiaramente anormale, ma non riesci a identificare l'origine di questa anormalità. Vabbè. Andiamo verso la luce. E sono tutti umani. E sono tutti umani, sì. Ok. Camminate Allora, e sì. la quantità di gente inginocchiata aumenta, aumenta, aumenta, finché non vi ritrovate quasi in un mare di gente, tutti inginocchiati. Sempre nella stessa posizione. Quando arrivate verso il centro di questa raccolta di gente, vedete che la luminosità aumenta e anche la quantità di gente aumenta. Vedete che c'è un'enorme specie di nuvola fungoide che sprigiona luce che parte dal deserto. C'è questa specie di cupola, ma è una cupola un pochino più, come dire, immaginate una cupola di luce un po' fluttuante, un po' come dell'acqua torbida che si muove, qualcosa del genere. Io Vedete chiedo che al catto. Vabbè, vai con te. Vediamo. Scusa. Cato lo guardi e è chiaro nei suoi occhi che sia sorpreso quanto vuoi. Vedete che Non c'è succede? poi una caccata. C'è della gente che è inginocchiata davanti a questa luce, con la testa reclinata e le braccia estese, distese. Vedete che questa luce non genera calore? Ma la luce è così forte che le ombre proiettate sono di un nero assoluto. E vedete che le ombre di questa gente che sono davanti a voi si proiettano molto indietro. È talmente forte questa luce che. E ancora non rispondono a schiaffoni, niente. Assolutamente Oh, io provo ogni tanto. A infilzare qualcuno? Va bene. Quindi siamo vicini alla luce adesso, no? Siete vicino alla luce. Sentite anche che c'è una specie di vibrazione bassa che pervade un po' dappertutto. Sentite una specie di qualcosa del Ok, genere. io provo a lanciare il disco rasoio dentro la luce. Ok. Esplodiamo Faccio il bomba tiro, non so se atomica. serve a qualcosa. Tira. Difficoltà 5, 6. Ci ha tirato. Sì, Saturno. 5. Ok. Difficoltà 6. Ritorna indietro Non so se manchi perché oppure no. Non mi ricordo. Diciamo che non lo so. ti ritorna Non lo indietro il so. disco. Sì. Vedi, il Ok. disco parte Ah. e poi ti ritorna. Quindi non succede niente, ok. Vabbè, continuiamo a avvicinarci a sta cacchio di luce, almeno io con di luce. Cosa fa? Vi coprite gli occhi, guardate la luce, che cosa fate? Quanto intensa è? Forte, giusto? Comincia a essere forte, E dico. in fondo, Dà beh, sì, è fastidio. forte, no, non dà fastidio, però è molto forte. Beh, comunque ho paura, quindi Sì, beh, dopo tutta sta roba che abbiamo visto. Mi Quindi metto l'ombrello davanti. Ok, quindi non guardate, però avanzate verso la luce. Mi guardo i piedi, ecco. Ok. Cioè non la guardo direttamente, guardo un po' a. Ok, Ma ci sono delle costruzioni oppure niente? stai guardando. Guarda la luce, fai una prova di percezione. Guardare cosa? No, Beh, se ci sono delle costruzioni. ma prima di arrivare qua, cioè perché Ah no, stavamo prima no. puntando alla luce? perché c'era una spira, c'era una spira ed era la sola cosa che vi parlava di civilizzazione, per quello che siete avanzati fino a qua. E la spira adesso dov'è? Adesso non la vedi. Non la vedi, cioè c'è la luce dappertutto, quindi è un po' molto difficile vedere al di là della luce. Cavolo, ragazzi, io non so più cosa dire. Ma io non ho niente, perché non capisco mai un cazzo. Cioè, la spia non era dove c'era la luce, non era lo Sì, stesso posto. sì, però non si vede, cioè nel Sì, senso. lì non la vedi. Vabbè, io mi sacrifico, guardo, faccio un osservare. Fai una prova di osservare, tira. Ok. Bello. La luce è un po' troppo forte, non vedi. Ti sembra ci sia qualcosa all'interno, ma non riesci a capire che cos'è. Ok, posso tirargli un'arcata? Cioè, ho un Sì. arco. Tira un arco. Bello. Parto una freccia in mezzo alla luce e poi la luce è talmente forte che non riesci a vedere dove finisce la tua freccia. Vabbè, dai, ormai ho guardato, vado verso la luce, verso quella cosa che vedo. Ok. Gli altri cosa Guarda. fanno? Aspettano di cosa succede. Ok. Beh, dopo un po' perdete la traccia di Ash perché è troppo forte la luce. Ok, e io cosa succede? Muoio? Cioè, vabbè, se vuoi dirmelo in privato. Te lo dico dopo. Ah, ok. Ho quasi la sensazione di essere rincoglionito anch'io. Beh, vedi che Quindi non c'è Katog ti niente. segue. Cato che mi Non c'è Sì. nient'altro da fare, per forza. E Katol, perché dico Katol? poi a questo punto ci abbiamo 2 settimane. Li seguo anch'io. Ok. Io provo urlando a chiedervi cosa vedete. Io ho sempre l'ombrello davanti. Ebbene, dice, vede l'ombrello aereo, quindi. L'ombrello! No, ma nel senso mi rispondono? Mi risponde anche Ash e La, Cattle? per il momento sì. Ok, chiudo gli occhi. Ok. O devo Chiudi fare una gli occhi, memoria, cioè è qualcosa? presente quando ti puntano una luce in faccia che c'hai le palpebre chiuse? Lo stesso effetto, vedi un po', vedi comunque che c'è un po' di luce. Giratevi di spalle! Sì, faccio così. Ok, ti giri di spalle e continui ad avanzare. Cioè, continuo ad avanzare all'indietro. Sì, non Sì. sei proprio così stupido. No, no. Sì. Cioè, Ok. ok. E vedo qualcosa davanti a me. Cioè, guardando indietro, vedo i miei compagni. Sì, vedi i tuoi compagni. Solo due di loro, però. Io attendo da distanza. Anche Nir? Nir? Ho paura, cosa succede dopo, Master? Nir è morto, Nir? Sì, sono un po' tocchi, scusate ragazzi. Ah, ok. Quindi sei solo a continuare ad avanzare? No, cioè io continuo con il mio ombrello. Ok, continuate. E anche Cato, penso. Sì, vado anch'io con loro. Vai anche tu? Ok. Uffa, sono l'unico. Io e Cato che avanziamo guardandoci e controllando che siamo svegli. Ok. L'altro. Dopo un po' Grazie. vi sentite leggermente disorientati, quelli che sono andati avanti. C'è una specie di flash e non vedete più niente per qualche secondo. Siamo morti. Dopodiché vi trovate, aprite gli occhi di nuovo e vi trovate in una piana. Siete su un campo verde davanti Che cazzo? a una specie di keep di castello sul quale svolazzano due bandiere. Una mostra un sole rosso su sfondo nero e l'altra una luna gialla su un campo blu. Vedete Vi rendete conto che tutto il vostro equipaggiamento è sparito? Porca. Guardate dietro di voi, vedete che non c'è un'uscita. La sola cosa che vedete sono delle colline verdi dappertutto. Mm-hmm. Che cazzo? Vi rendete conto anche di essere vestiti di nero con dei vestiti neri piuttosto attillati? Oh, mi sta bene questo vestito. Però c'è un problema, che ti guardi e non ti riconosci troppo. Ah, ma vedo già male. Vabbè. Soprattutto tu la vedi male, perché ti rendi conto di essere in un corpo umanoide. Oh mio Dio. E guardi in faccia a te e vedi degli esseri umanoidi vestiti di nero. Asessuati. Sì. Okay. Che cosa hai detto, Nico? No, dicevo stile è l'unica nostra speranza. Ok, vedi un umanoide che non riconosci, vestito come te, che dice stile è la nostra unica speranza. Ah, bello. Vedi che l'umanoide che è davanti e l'altro umanoide di fianco sembrano essere identici, tra l'altro. Io mi tocco il naso. Vedi che uno di questi umanoidi che non riconosci si tocca il naso. Ok. Vediamo cosa sta succedendo. Adesso mi tocco la testa. E in pratica siete tutti uguali. Sì, l'avevo immaginato. Mi tiro un pugno. Senti male? Sentiamo male tutti? Non avete fame? No, solo lui. Ma io non ho capito, cioè... Perché le vostre membra sono così flaccide? No, aspetta, scusa. Provi a colpirti, ti manchi. Ma aspetta un attimo, ma io vedo un umanoide che fa le cose che voglio fare io? No, sei in un corpo che non riconosci. Ah, ok. Sei sicuro di essere tu, però non, cioè, ti trovi strano perché tipo guardi in basso, tipo Candy Barbie. E non riesco a tirarmi pugni. Sì, beh, cioè, provi a darti un buffetto, ti fai male. Cioè, nel senso, se senti un po' di dolore... Io nel frattempo provo, continuo a urlare per chiedere dove sono. Non c'è risposta. Dai ragazzi, è stato bello. Mi siedo a mangiare un fungo intanto. E direi di finire la serata qui, mi sembra un buon punto per fermarsi. È quel classico punto che se fosse un telefilm o qualcos'altro, bestemmi perché vuoi vedere cosa succede dopo. Esatto, il cliffhanger classico, quello che fa incazzare i miei figli quando guardano le serie di cartoni animati. Perfetto. Esatto. Va bene. Buon bene, ragazzi, no. Abbiamo avanzato un po', ma... Non mi piace essere assessuata, dove sono le mie tettine? Dove la mia pelle rocciosa? Ma sono più importanti le tette. Vedremo, non le tue sicuro. Boh, ragazzi, spero che riusciremo a giocare. Allora, la settimana prossima probabilmente no. Poi non c'è neanche... Chi è che non c'era già? Non mi ricordo più. Io faccio le Fabiano, notti quasi tutta la settimana, quindi... Ok. Cercheremo di fare la settimana seguente, sperando che mi abbiano attaccato la DSL. Ma al peggio gioco sul telefono, dai. Ok. Buonanotte, aspettando. E alla prossima. Notte. Ciao, alla prossima. Ciao. Grazie a tutti. Ciao.